Terza parte di Rock Legends, come sempre Gianluca al microfono, e lo ricordo, stasera ospite la band veronese dei Roadless. Con voi e con loro ascolteremo 6 brani del CD Whiskey for Breakfast, come il primo che è andato in onda. Titolo? Titolo è Amber Morning ed è il brano che apre il CD. La vostra esperienza durante le recording session e quali sono le linee guida che hanno tracciato questo CD? Beh, è stata un'esperienza alcolica, direi. Abbiamo registrato il tutto in una settimana, è stata una settimana molto intensa. Forse ha registrato in troppo poco tempo, visto che per alcuni di noi era la prima volta e era una cosa completamente nuova. Ci stiamo ancora definendo, però comunque continuiamo a lavorare sempre di più per migliorarci e rendere la nostra musica più bella. La prossima canzone per i nostri ascoltatori. Allora vi andiamo a proporre il secondo brano praticamente del CD, che è con un ritornello molto più incisivo, si chiama Crumbs of Difference. Studio ancora con i Roadless, capitolo recensioni musicali, quelle più importanti e cosa dicono del vostro album, in particolar modo cosa i recensori hanno puntualizzato. Ma guarda, la recensione più bella è stata quella del Mucchio, secondo noi, perché comunque ha proprio espresso bene quello che era un po' il CD, proprio ascoltato. Un po' meno carina quella di Rock Zone, ma insomma ognuno la pensa un po' come vuole. Al momento su 6 recensioni, 4 sono positive e 2 insomma. Però tutto questo, anche le recensioni negative, sono quelle che ci spingono a migliorarci, i punti che insomma sono un po' meno ben chiariti. Qualcosa hanno detto sulla produzione, che probabilmente è un po' poco rotonda, un po' pressapochista. Il discorso è che fondamentalmente con pochi soldi registrato in una settimana per un disco autoprodotto, così è venuto fuori anche troppo bene. Direi di sì, insomma, dai. Stiamo lavorando per il secondo disco, che comunque probabilmente sarà più rotondo, sarà più arrangiato, molto rock forse. Prossima canzone? Prossima canzone andiamo con Lonely Man, un lento del CD. Proverete. Torneremo breve per la quarta parte di Rock Legends con i Roadless, rimanete ancora su Radio RCS. Oh.